L'altro pianeta di Laura Bettini. Ben ritrovati per una nuova puntata dell'Altro Pianeta e, visto che siamo al calare della sera, parliamo di luce in questa puntata. La Francia ha deciso infatti di proseguire nel suo percorso di razionalizzazione dell'illuminazione pubblica e contrasto dell'inquinamento luminoso. La via l'aveva aperta la precedente amministrazione, ora Hollande ha deciso di continuare, varando un nuovo provvedimento che a partire dal 1 luglio 2013 vieta di tenere accesa dopo l'una di notte l'illuminazione esterna degli edifici non residenziali. Quindi parliamo di negozi, uffici, pubblici o no, monumenti, stazioni e via dicendo. Esclusi dal provvedimento sono invece, in quanto residenziali, case e alberghi. E deroghe sono possibili per particolari festività o eventi turistici, nonché per determinate zone turistiche di Parigi, Lione, Marsiglia, Nizza e di un'altra quarantina di città francesi. Le luci interne di uffici e negozi potranno restare accese per un massimo di 60 minuti oltre l'orario di chiusura, ammessi invece i punti di luce che servono per garantire la tutela della proprietà, quindi i fari e faretti che consentono i controlli di sicurezza. È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè, le strade sono deserte. Deserte silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Ora, questo provvedimento nazionale in Francia è arrivato proprio nei giorni in cui in Italia l'ANCI, l'Associazione dei Comuni, presentava le sue linee guida operative per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica. In Italia infatti non c'è, in tema di inquinamento luminoso e risparmio energetico sull'illuminazione pubblica, alcuna normativa nazionale. Esistono delle normative regionali al massimo e quindi l'ANCI ha voluto fornire un manuale per i comuni che vogliano ridurre le spese e i consumi per l'illuminazione e i semafori. È questa una delle voci di spesa più consistenti nei bilanci dei comuni, dice Filippo Bernocchi, delegato ANCI all'energia e rifiuti. Quando parliamo di illuminazione pubblica pesa sul bilancio di ogni comune in maniera importante. Lei tenga conto, un comune come il mio, di circa 200.000 abitanti, ha una spesa annua di circa 2 milioni e mezzo di euro. Ora, quindi è una spesa che grava molto, soprattutto ora in questo momento che siamo tenuti noi come comuni a rispettare il patto di stabilità e soprattutto a tagliare la spesa corrente. Quindi il primo problema è un problema di risorse. Seconda opportunità, l'illuminazione pubblica è il settore dove con pochi accorgimenti puoi ottenere risparmi fin anche al 60% rispetto allo storico della spesa. Ora, tenendo presente che spendiamo circa 1 miliardo l'anno per illuminazione pubblica e semafori, è chiaro che i margini di risparmio e di guadagno sono piuttosto ampi. In più è chiaro che i nostri sprechi sono altrettanto ampi se consideriamo che il consumo pro capite l'anno per illuminazione pubblica è da noi di 105 kWh, contro due nazioni non certo al buio, come la Germania, che ha 42 kWh pro capite l'anno, e la Francia, 80 kWh al momento, senza considerare quei provvedimenti di cui abbiamo parlato all'inizio della trasmissione. Di nuovo Bernocchi. Occorre tutta una serie di precondizioni, cioè la prima precondizione è che il comune sappia di chi sono gli impianti, molte volte non lo sa. Non sa se sono suoi, non sa se sono dell'Enel, se si possono riscattare e quant'altro, e quindi la situazione, diciamo, di fatto dalla quale ci si muove, e poi naturalmente le migliori scelte in termini di tecnica, perché oggi, diciamo, ci sono varie soluzioni tecnologiche, ma la soluzione tecnologica, quella diciamo più convincente, è quella che riporta, diciamo, una riduzione media dei consumi di un 30-40% e che appunto vediamo poi subito nel bilancio dell'anno successivo. Quindi insomma, uno dei principali punti della spesa di un comune, specialmente magari medio-piccolo, che ha anche ingressi insomma relativamente scarsi, è questo. Ma lei nota che i comuni alla fine non sanno di chi sono gli impianti, enti non sanno come devono agire? Cioè... Sì, perché c'è una stratificazione di interventi, alcuni interventi sono stati fatti a scomputo oneri di urbanizzazione, quindi ricostruire la situazione molte volte è complesso. Poi naturalmente invece ci sono comuni che sono molto preparati. Vabbè, questo dipenderà anche dalle regioni, immagino, perché ci saranno regioni più o meno magari attente a questo tema. Ma guardi, diciamo l'attenzione oramai c'è da parte di tutti, perché c'è da parte delle imprese che vedono lì, vedono all'interno di questo settore uno straordinario volano di sviluppo, perché noi produciamo tecnologia, la produciamo bene, in Italia siamo molto bravi, abbiamo grossi player a livello europeo che stanno sul nostro mercato. I comuni lo stesso sono attenti, perché l'illuminazione pubblica riguarda anche il decoro della città, no? Quindi poter intervenire sul parco illuminotecnico risparmi, crei occasione di investimento sul territorio e abbellisce anche il territorio. Però tutto questo è diciamo complicato dal fatto che molte volte all'interno dei comuni non hai la professionalità per preparare una gara di questo tipo, quindi o aderisci alla convenzione Consip oppure ti devi affidare gioco forza a soggetti esterni e c'hai difficoltà a fare questo perché hai dei limiti che ti derivano dal patto di stabilità per il conferimento di incarichi specifici a professionisti esterni. La nostra iniziativa dà la possibilità a ogni comune che anche non abbia al proprio interno le professionalità necessarie di poter affrontare questo tema in sicurezza. È curioso che a Bernocchi sia già sfuggita un'anticipazione di quello che racconterà poi ed è relativo al suo comune. Infatti detto, l'ANCI vuole aiutare i comuni ad affrontare il tema in sicurezza. Ma come in sicurezza? Comunque tra poco vedremo perché dice così. Intanto sentiamo quali sono i suggerimenti pratici dati ai comuni. Le possibilità, diciamo, che tracciate sono sia quelle dell'innovazione, quindi di rinnovamento di tutto il parco, di illuminazione di un comune, sia quelli interventi che magari un po' a minor costo però consentono comunque di risparmiare. Un regolatore che costa pochi euro, poche decine di euro, ti fa risparmiare centinaia di euro. Chiaramente in intervento nel parco illuminotecnico di un comune è un qualcosa che va visto non soltanto nell'ottica, come dicevo, di risparmio, di risparmio in termini ambientali, risparmio in termini economici e di decoro urbano, ma anche va vista come opportunità di creazione di una rete intelligente all'interno della città, perché oramai la tecnologia, il palo della luce, dentro il palo della luce passa tutto, passano le telecomunicazioni, passa la fibra ottica, passano i rilevatori di inquinanti, passa tutto, quindi il futuro sicuramente sarà illuminazione pubblica, ma un'illuminazione in un concetto un po' di smartness, di intelligenza dell'illuminazione e che serve, diciamo, a vari scopi, dall'antenna wifi a tutte le altre cose che le ho detto. Mi viene in mente quando il governo tentò di far passare quel cosiddetto cieli bui, che dovrebbe dovuto essere un decreto, ma il timore maggiore fu abbassano le luci, c'è meno sicurezza. No, assolutamente. Noi oggi abbiamo delle città che quando sono state progettate non tenevano conto delle innovazioni nel campo della scienza illuminotecnica, per cui oggi noi abbiamo molti più, tra virgolette, pali della luce di quelli che servirebbero. Non lasceremo i cittadini al buio, regoleremo l'illuminazione in maniera intelligente e eviteremo anche quell'aspetto molto brutto di inquinamento luminoso che ti impedisce la vista del cielo di notte. Insomma, sì, che a volte è dovuto anche a un mal posizionamento degli impianti, no? Magari sì, non è stata... Sono impianti vecchi, lei pensi 40 anni fa quali erano i criteri che si seguivano quando facevamo interventi del genere, ecco. Sì, e anche di quali lampade si disponeva rispetto ad oggi. I comuni fanno delle scelte ora che poi avranno dei riflessi sul territorio per i prossimi 15-20 anni, siano le scelte più giuste dal punto di vista tecnico. E adesso veniamo a quel lapsus sulla sicurezza. Il comune che affronta in sicurezza il rinnovo del suo parco illuminante. Bernocchi ha qualcosa di molto vicino da raccontare, infatti, che riguarda il suo comune, Prato, molti altri comuni in giro per l'Italia e che è sicuramente un tema interessante di riflessione per tutti noi. Il problema è la procedura di gara, perché oggi c'è, a torto a ragione, ecco, ma le procedure sono abbastanza complesse. Le faccio l'esempio classico del mio comune. Abbiamo fatto la gara 3 anni fa, abbiamo aggiudicato a una società ottenendo un risparmio medio del 37% rispetto allo storico della spesa e potendo contare su investimenti per circa 5 milioni di euro nel primo biennio. A distanza di 3 anni siamo ancora fermi al Consiglio di Stato, perché ci sono state delle sospensive, ricorsi, TAR e quant'altro. Alla fine avrò ragione, avrò torto, non lo so, credo alla fine avrò ragione, ma nel frattempo io ho bruciato quasi 1.900.000 euro di mancati risparmi. Quindi una cosa è poter fare agevolmente in 6-7 mesi, invece i tempi amministrativi sono di qualche anno, quando non sono complicati che dalle vicende relative alla giustizia amministrativa. Bonne nuit, buonanotte. Come diceva Bernocchi, che il comune abbia torto o ragione, intanto sono mancati risparmi per 1.900.000 euro alle casse del comune. I consumi non si sono ridotti e le emissioni nemmeno. Chi va piano in questo campo non va né sano né lontano. L'appuntamento è per la prossima settimana. Da Laura Bettini, grazie per l'ascolto. Vi ricordo l'altro pianeta @radio24.it per scriverci.